Kellogg. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Ciao mamma DJ, dov'è Jay? Oh, ciao Neil, è a casa ad aggiornare il curriculum. Porcona, ti piace vedermi così, eh? La cicciottella è insaziabile. Non dovete entrare sbavando e andare dritti a presentarvi. Ballate intorno alla ragazza, occhietto languido, e poi invitatela in pista. Davvero? Guardate me. Papà l'americano. Noi siamo cresciuti nell'illusione che ci fosse un mondo felice. Almeno, lo dico questo quando eravamo ai tempi tra liceo e università, nel periodo della scoperta del mondo, un mondo felice che era quello rappresentato dai film tipo American Pie, ma gli altri film, Porky's, in cui si vedeva che questi studenti americani nei loro college facessero di cotte e di crude, ma noi in realtà eravamo costretti a procurarci con il sudore della fronte, con perspicacia, con tanta fatica, una fidanzatina ogni tanto, si doveva stabilire un lungo e speranzoso rapporto amoroso e forse si arrivava a delle concessioni che sconfinassero nel piano dell'intimità fisica. Questo naturalmente lo riferisco a una generazione molto antiquata che è la mia, poi andando avanti nei tempi le cose saranno senz'altro cambiate. Ma a me mi ha incuriosito in realtà un fenomeno che ribalta completamente questa nostra speranza di un mondo idilliaco in cui tutto si facesse liberamente, in cui le ragazze avevano un desiderio di promiscuità esteso, e non ci sembrava vero, come, che ne so, trovarsi come Hansel e Gretel nella casetta fatta di zucchero, che in realtà era di una strega. Immaginavamo mondi del genere. Ma in realtà io poco fa, ho scritto un pezzo poco fa, lo vedete sulla stampa.it, e proprio a caldo ho deciso di farci anche la trasmissione, perché la cosa mi incuriosisce parecchio. C'è stato un convegno in America, in Colorado, istituito dall'Istituto Aspen, che si occupa appunto di comunicazione aziendale, di promozione, di innovazione delle aziende, dove alcuni importanti professori, cattedratici, studiosi comunque dei fenomeni sociali si sono pronunciati sul fatto che in realtà nei college americani pratichino in maniera esagerata le relazioni che loro sintetizzano con un termine che non avevo mai ascoltato, poi visto che in realtà in rete è corredato da un'iconografia molto vivace, si chiama UCAP. UCAP vorrebbe essere l'aggancio, il logo dell'UCAP è un cuoricino preso colamo, è quello che noi chiamiamo la botta e via. Questi studenti nei college, in sintesi, come dicono questi professori, sarebbero presissimi dal loro quotidiano universitario, scolastico, a seguire corsi, a pensare al loro futuro, ad accumulare crediti, e non hanno tempo per fare quello che le nostre generazioni facevano al loro tempo: si innamoravano, saggiavano tutte le possibili gamme della relazione. No, loro praticano soltanto l'UCAP, una botta e via, e poi giù a pensare a studiare. E questo in America crea un grande problema. E ti dico di più, se il tuo pisello non facesse niente con tutte queste belle fichette che ci sono, allora sì che mi preoccuperei davvero. Già. Sì, però mi fa andare fuori di testa, voglio dire, come cavolo faccio a tenerlo buono? E perché dovresti farlo? Lascia che si esprima, no? Questo era Porky's, in cui c'era appunto questo poverino che era l'unico che di tutto il gruppo non riusciva a fare appunto UCAP, e aveva, diciamo, con una antica e classica rappresentazione, calcata anche dal nostro scrittore Moravia, un dialogo ininterrotto, verbale, con la propria appendice virile. Ma io mi sono divertito a vedere che dai rapporti di questi professori viene proprio il fatto che sono preoccupatissimi. C'è una professoressa, Erika Christakis, che avrà 30 anni, una ragazzina, dice: ai miei tempi ci innamoravamo, usavamo il periodo del college per fare esperienza amorosa, e oggi questi ragazzi che hanno soltanto questo brevissimo UCAP non ci pensano. Tant'è che nelle università americane, supportati anche da una ricerca della società di psicologia americana, che ha scoperto che dal 60-80% degli studenti americani conoscono soltanto l'UCAP, l'aggancio, il puntello, la botta via, chiamatelo come volete, esiste un'infinità di forme gergali per definire il rapporto mirato semplicemente a un semplice accoppiamento. Dice però in realtà hanno una grande nostalgia di quello che c'era prima. Il 63% degli uomini e l'83% delle donne vogliono tornare come prima, tornare ai corteggiamenti, all'amore, ai romanticismi, e non sono più capaci, perché tra loro comunicano soltanto attraverso i telefonini, gli smartphone, le messaggerie, quindi non sono più capace a guardarsi negli occhi, a prendersi la mano, a fare discorsi romantici. E come hanno risolto le università americane? Hanno istituito nei curriculi universitari anche dei corsi di corteggiamento, di amore. Guardate che è vero, sembra proprio una battuta. L'Università di Illinois ha fatto un workshop proprio sul... Il tema è l'incontro in college, come approcciare una ragazza nel college, come incontrarsi. L'Università Duke ha messo a disposizione gli studenti dei consulenti che danno appunto dei consigli di tutto quello che noi abbiamo sempre saputo fare, abbiamo imparato da soli, quindi insegnano come fare a corteggiare una ragazza. Andando ancora avanti, ci sono altre università che hanno fatto proprio corsi specifici con obbligo di frequenza, in cui si insegna cos'è l'amore, come ci si innamora, come si corteggia, come risolvere i problemi d'amore, quando innamorarsi fa male, come si fa a interrompere un amore quando uno si rende conto che è più pesante andare avanti che interromperlo. Beh, tutte queste cose che noi abbiamo imparate sulla ruvida e dura trincea della nostra esperienza, loro lo fanno all'università. 800240024. Cosa ne pensate? Anche voi pensate che è giusto che entrino i docenti in amore, che le grandi titolate tenutare delle rubriche della Posta del Cuore vadano nei banchi universitari e insegnino ai nostri ragazzi, visto che le mode americane trapelano velocemente anche alle nostre latitudini, come si entra in quel nebuloso, farraginoso, doloroso, fastidioso, limaccioso, pieno di mucillaggini, insidie, mondo della relazione amorosa che noi ci siamo lasciati dietro alle spalle. 800240024. Vedi, Florian, questa è solo una questione biologica. Il corpo umano funziona come un meccanismo ben oliato. Il cuore pompa il sangue attraverso tutti gli organi vitali e quando un uomo è eccitato da una donna... Perché è molto innamorato di questa donna. Allora una grande quantità di sangue arriva al suo... pisello. E certo non si tratta di una ragazza qualunque appena incontrata. Probabilmente lui l'ha sognata per tutta la vita. È quella che magari vorrebbe sposare. Petra, la smetti di interrompermi continuamente. Non stiamo parlando di matrimonio. Parliamo di biologia. Intendevo che queste sensazioni non si provano per chiunque. Sono sensazioni che provi solo per una ragazza speciale, tesoro. Quindi, come dicevo... Mi scrivono già gli ascoltatori, conoscono il problema meglio di me perché frequentano ragazzi giovani, mi dice un ascoltatore, dice da oggi il problema si pone nelle scuole medie, altro che nei licei, quindi siamo già a look up precoce. La clip che avete sentito sono dei genitori che tentano di passare attraverso rocambolesche arrampicate sugli specchi nella mentalità del proprio ragazzo il fatto che la relazione sia anche fatta di sensazioni, di sentimenti, di reciprocità, non soltanto di quell'unica operazione fisica che i ragazzi americani sembrano praticare come unica maniera di relazionarsi, e ne sentono la mancanza di tutto quello che c'era prima. UCAP è la conferma del fatto, mi scrive un altro ascoltatore, che denaro e carriera sono diventati gli unici valori fondanti di questa società malata. Beh, sempre la stessa cosa, questo varrebbe anche, che ne so, per le supposte di glicerina, per le flessioni della borsa o perché non crediamo più in Dio. Francesco, buongiorno. Buongiorno, volevo semplicemente dire che probabilmente gli studenti USA non pensano altro che a studiare, perché nel 99% dei casi devono farsi finanziare da una banca gli studi e quindi il loro ultimo pensiero è l'accoppiamento, tutto qui. Grazie. Sì, lei dice, no, aspetti, non se ne vada, perché mi aggiunge un elemento molto importante. Io ho letto le riflessioni e le relazioni di queste professoresse che hanno stupito. Dice, sembrano già degli adulti, sembrano già proiettati il mondo adulto. Per loro c'è un'ansia di riuscita. Ma lei mi dà la chiave che mi mancava. Loro gli studi se li pagano, se loro non fanno così, i genitori non possono mantenerli agli studi. Non è come da noi che diventa un parcheggio l'università. Esattamente questo è il senso. Non possono più perdere tempo. Esatto, sì, perché una delle più grandi bolle, penso pronte a scoppiare negli Stati Uniti, è proprio quella del debito studentesco, che è una cosa enorme, quindi è un argomento serissimo, al contrario della, passera, diciamo, se mi permette il tempo. No, sì, ne abbiamo detti anche di peggio. No, lei mi dà un elemento però importante di riflessione. Vede, diciamo, il rimedio che hanno studiato nei college americani di ricondizionare il ragazzo a una relazione più tranquilla, più gratificante, perché mi sembra che siano abbastanza neurotizzati loro da questa continua festa di toga party, capito? È una soluzione nella chiave che lei sta suggerendo, cioè c'è la grande bolla sta per esplodere del debito universitario, fra un po' non potranno più pagare i debiti che hanno accumulato per pagare l'università e quindi non lavorano ancora e succederà un casino. Esattamente, esattamente. Qui troveremo una generazione di disoccupati, ma perché ancora non hanno finito l'università, che non riescono a pagarsi. Grazie, Giuseppe, buongiorno. Buongiorno. È molto interessante quello che dice Francesco, ha dato subito una chiave concreta. Giuseppe? Giuseppe? Vabbè, Giuseppe si è suicidato. Luca? Nel senso, radiofonicamente. Luca nemmeno, abbiamo un problema delle telefonate. Quindi vabbè, andiamo avanti nel raccontare quello che sta accadendo. La cosa che io mi stavo ponendo come ipotesi surreale, dico, se questo fenomeno trapelasse anche e tracimasse alle nostre latitudini, come sempre accade, si aprirebbero nuove chance professionali, perché se nelle università si aprissero i corsi, come è stata la fortuna di tanta gente, i corsi di scienza della comunicazione, figuriamoci, tutti i colleghi andavano a insegnare scienza della comunicazione raccontando quello che facevano dalla mattina alla sera nel loro lavoro, è diventato disciplina universitaria, oggi siamo pieni di scienziati della comunicazione, però dobbiamo riportare dei problemi rispetto alle modalità base della comunicazione. Ci saranno comunque facilmente accessibili delle docenze libere di scienza della relazione, cioè tutto quello che noi abbiamo accumulato come esperienza personale nel corso di anni di maceranti amori, di disillusioni, di delusioni, di cuori frantumati, ci sederemo a un banco e diremo: ragazzi, si comincia così, ci si guarda negli occhi, ci si prende per mano, ma non ci si dice nulla. Si aspetta che qualcuno faccia il primo passo, poi arriva un altro e fa il primo passo prima di te, e quindi si passano periodi addolorati in cui il mondo sembra crollarti addosso. Luca? Luca? Sì, buongiorno. Eccomi. Buongiorno Nicoletti. Allora, io sono assolutamente d'accordo con quello che sta facendo la scuola americana, perché io ho 49 anni, sono un 1964, al contrario della generazione precedente, cioè quella di mio padre, che non aveva avuto assolutamente educazione sessuale. A me alle medie hanno fatto i corsi di educazione sessuale, però i corsi di educazione sessuale che ho fatto io alle scuole medie... Che anni erano? Perché io ho un figlio che l'ha fatto, mi ricordo, all'elementare ne sapeva più di me. Erano gli anni 70, sì, diciamo, la fine degli anni 70. La mia educazione sessuale è stata squisitamente anatomica, ok? Io ho scoperto molto dopo che l'approccio psichico sessuale di uomini e donne è diverso. Se l'avessi saputo prima... avrei avuto molti meno dispiaceri e probabilmente... Era gli anni in cui si tendeva a razionalizzare, a togliere dalla relazione tutto ciò che sembrava antico, romantico, passatista, reazionario. L'amore era reazionario, il sesso libero era rivoluzionario, poi alla fine anche i rivoluzionari sono finiti ben miseramente, l'abbiamo visto, sui lettini degli psicanalisti facendo la loro fortuna. Melog. Cronache meridiane. A te piacciono i puffi? Già, ma mi sono persa una puntata. Sono così carini, soprattutto la puffetta è talmente graziosa e femminile. Da piccola volevo diventare come lei. Dimmi una cosa, hai mai notato che la puffetta è l'unica ragazza che c'è nel villaggio? E allora? Cioè, a te non sembra molto strano che in tutta Puffolandia ci sia soltanto una donna? Prova a pensarci, i puffi si sarebbero fatti a pezzi l'un l'altro pur di arrivare alla puffetta. Il risultato non sarebbe stato piacevole, battaglie, sangue, cadaverini blu ovunque. Ma poi ci sono arrivato. Perché a Puffolandia non c'è la guerra totale? È molto semplice, perché la puffetta vende il suo corpo agli altri puffi. Come, scusa? Certo, la puffetta è la puttana del paese. È grazie a lei che la comunità blu rimane unita. Hai ragione, la puffetta è la più fica di tutti i puffi. Hai rovinato il sogno di tutta la mia infanzia. Certo, sono dolori, sono traumi, me ne rendo conto. Capire, ma in realtà se lo dovevano spiegare tutti gli ammiratori dei puffi, come fanno 3.000 puffi, a meno che non abbiano altri tipi di chance nell'accoppiamento, a sopravvivere emotivamente, eroticamente, relazionalmente in una sola puffetta. E la puffetta è bocca di rosa e mette l'amore in ogni cosa, mi sembra logico. Eleonora. Sì, buongiorno. La notizia che ha dato oggi mi ha lasciata abbastanza perplessa, perché la storia della puffetta, della puffetta, no, la notizia degli studenti americani della puffetta, l'ha sempre immaginato che la puffetta la dava a tutti i puffi. Non ho mai considerato che i puffi potessero avere ambizioni sessuali, diciamo, perché li vedevo da piccolo quando io nemmeno conoscevo l'argomento, poi li ho dimenticati, per cui... Però ecco, il fatto che l'uomo possa nascere senza l'istinto sentimentale, diciamo così, mi lascia un po' perplessa, e forse è stata un po' la società che ha creato questa mancanza, quindi è anche giusto, a mio parere, che la società intervenga insegnando un comportamento. Ecco, ma qua la voglio. Insegnare il rispetto. Ma chi è che può insegnare? Lei riuscirebbe a sedersi alla cattedra di un college americano? Cioè, ragazzi, da oggi lezione di pomiciamento, lezione di guardarsi negli occhi, lezione di sbirciare con la coda dell'occhio. Da dove inizierebbe lei? Oddio, immagini, sì, che questi sono come degli... Immagini che c'hanno avanti come bestie. Si mandano sms e whatsapp tutto il giorno, poi si dicono andiamo, si appoggiano al muro, consumano e poi ricominciano la loro vita. Come farebbe a condizionarli diversamente? C'è il rischio che ci siano questi atteggiamenti, ma forse essendo un argomento nuovo, una cosa nuova, può anche essere che ci sia invece un interesse a scoprire un mondo... una second life reale e non virtuale. Ma da dove approccerebbe? È bello guardare il tramonto, è bello desiderarsi, è bello sognarsi. Io non ho idea da dove comincerei. Ho un'esperienza vastissima di sfigaggine, figuriamoci, millenaria. Però dico, ricordo tanta sofferenza, tanta ansia, tanta angoscia, anni in cui non aveva uno il coraggio. Ma io credo che di base, oltre a mancare la conoscenza di come approcciare l'altro, si manchi la conoscenza di come sentire se stessi, ecco, di come avere una percezione delle proprie sensazioni più che altro, quindi forse quello deve essere insegnato. Va bene, lei sta teorizzando, può... io voglio cose concrete, vediamo se... Matiscia? Così ho detto, sì. Bene. Matiscia, lei come comincerebbe la sua lezione? Beh, allora, innanzitutto io penso che se siamo arrivati a trattare di questi argomenti come lezioni universitarie... bisogna un attimino farsi tutti quanti un esame. Beh, però scusi, c'è un vantaggio. Chi questi argomenti è stato il suo pane quotidiano per una vita, oggi è professore ad honorem. Io ho 24 anni, sono anche una studentessa universitaria, ma ritengo che di queste questioni bisogna trattarne in famiglia prima di tutto. È vero che molti giovani come me adesso sono attaccati ai social network, nel senso si dicono tutto lì, e poi magari se escono assieme non hanno la capacità appunto di comunicare. Ma lei si innamora ancora, frequenta con amore? Io guardi, penso di essere uno dei rari casi che ha una relazione fissa da 10 anni, per cui da quando ne avevo 14, l'unica in tutta la mia vita. Beh, un bel colpo. E quando si sposa? Non lo so, bisogna vedere, per quello. Sì, comunque appunto bisogna tutto usare la testa. Molti miei, quindi il fidanzatino da 14 anni a 24 anni, come una volta, una cosa serissima. Esatto, non usano la testa, no? Vedono l'amore e anche il sesso di conseguenza come una cosa leggera, e quindi non ci danno il giusto peso che bisognerebbe. E il suo fidanzato è della sua stessa idea, è convinta? Sì. Va bene, siete una coppia eletta. Potreste comunque fare una domanda per aprire voi stessi un workshop in un'università americana. Potreste andare tranquillamente a insegnare, non so, nell'Illinois, nel Colorado, dove questi ragazzi stanno lì, si accoppiano, ahimè, miseramente, come animali, ogni giorno con persone diverse, con favolose posizioni, con soddisfacenti elucubrazioni, e in realtà non aspettano altro che venga lei a dirle: io da 14 anni ho lo stesso fidanzato. Brava. Andrea. Buongiorno Nicoletti, ho il piacere di risentirla. Io ho avuto anche una presentazione del mio libro Uomini che lavorano con le donne nella sua trasmissione. Chi sarebbero i gigolò? Chi sono? Allora, chi sono gli uomini? Non mi ricordo, io ne faccio tanti. Chi sono gli uomini che lavorano con le donne? Uomini che lavorano con le donne è un libro che ho scritto da Bianchi, edito da Sole 24 sì. Ore, che riguardava l'ambiente di lavoro. Lavoro? Capito... No, pensavo... Sì. Sì, adesso ricordo perfettamente, chiedo scusa. Sì, un libro serio, no? Io pensavo già alla promiscuità. A rudi, no, rapporti prezzolati. Invece di promiscuità, io propongo, ma non soltanto a livello universitario, ma a livello anche più basso delle scuole superiori, dei corsi per i ragazzi sull'atteggiamento, in cui il corteggiamento è una delle tante componenti. Ora, anche se è riduttiva la cosa, perché è molto complesso invece il problema, secondo me un punto fondamentale è il cambiamento culturale dell'elemento femminile. Prima, volero volare, il maschio doveva corteggiare la ragazza per arrivare al suo scopo. Vabbè, certo, c'era un sudore di sette camicie. Poi fosse innamorato o meno, lì doveva fingere, comunque doveva fingere questo. Doveva avere una strategia che poneva al centro delle attenzioni la ragazza. Ma lei si ricorda, che è di generazione affine alla mia, si leggeva nei femminili, mi ha chiesto la prova d'amore, cioè la davano dopo un esasperato corteggiamento, ti sposo, ti voglio per tutta la vita, allora si concedeva appena un'assaggiatina così superficiale. Esattamente. Quindi quando questa ragazza si sentiva al centro delle attenzioni, ma anche formali, del ragazzo, cedeva. A questo punto cedeva. Oggi le ragazze, e quindi questo secondo me è l'elemento, hanno cambiato completamente. Se Dio vuole, però, scusi, perché. Sì, per carità, certo, si fa molta meno fatica. Però ma no, ma anche loro vivono la loro vita in maniera. Si rinuncia a quella serena. Parte che dicevamo poi adesso di cui si ha nostalgia. Quindi lei dice non si può avere la botte piena e la moglie ubriaca, uno si deve decidere. Esattamente. E quindi si simula. Io penso che questi corsi universitari siano i corsi di simulazione. È come uno psicodramma, è come una. Dice, vi insegniamo come facciano i vostri nonni, come quelli che si mettono gli abiti d'epoca e fanno il calendimaggio, la corsa dei balestrieri, i tamburellatori, gli sbandieratori. Ecco, si vestono da romantici signori degli anni 50 e 60, si corteggiano, si dicono parole d'amore e poi vanno tutti a fare la solita ammucchiata. Paolo. Buongiorno, sono d'accordissimo con l'ultima cosa che ha detto. Perché credo che non serva assolutamente a niente insegnare certe cose che dovrebbero essere apprese e metabolizzate in modo naturale, in modo spontaneo. Nel momento in cui qualcuno le insegna, hanno già perso tutta la loro potenza. Poi diciamo la verità, scusi Paolo, quando uno ha saltato il fosso, che torna a fare indietro a darsi le carezzine e le occhiatine, quando già ormai è passato, cioè mi sembra un po' ridicolo. Lo trovo ridicolo anch'io. Cioè la mattina dopo ci si sveglia dalla mucchiata, dice beh adesso andiamo sui banchi di scuola e c'è un professore che dice bene ragazzi, guardatevi negli occhi, prendetevi per mano e guardate il tramonto. Serafina, buongiorno. Buongiorno, io telefono perché il problema che mi pongo, che mi chiedo se si siano poste le università americane di cui lei parla, è se l'amore si possa insegnare, come dice Buscaglia. Secondo la mia esperienza, io ho fatto un'esperienza di insegnamento dell'amore e non ci sono riuscita. Lei è una maestra d'amore? E chi ha provato a insegnarlo? Non credo si possa insegnare. Ma lei ci ha provato, provato a insegnare l'amore, chi l'ha provato a insegnare? Buscaglia, a presente, Vivere, Amare e Capirsi, ha scritto un bellissimo libro, fa sì. Anche in America dei corsi sull'amore e dice che l'amore si insegna. Beh, grazie, lui ci vive, ci si mantiene, non potrei contraddirlo, anche io non aspetto altro che qualcuno mi chieda insegnami l'amore, mi farei un lavoro tranquillo, sereno, non dovrei nemmeno studiare tanto. Ringrazio Fabrizio Intonti e Valerio Rocchetti, a lunedì.